Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Le alluvioni di questi giorni in Toscana arrivano esattamente un anno dopo gli eventi di Genova e dimostrano come un tema cruciale per le città sia il rapporto con il territorio. Come tutti gli anni, all'indomani del disastro, i giornali si riempiono di articoli che invocano tolleranza zero per nuove costruzioni in aree a rischio e maggiori investimenti in manutenzione. Ma la sensazione è che riparare la canalina di scolo che si rompe o tenere pulito il canale che si ostruisce sia certamente importante, importantissimo, ma che spesso non basti, perché il territorio è ormai compromesso a un livello più fondamentale, per esempio dalla troppa cementificazione. A questo dobbiamo aggiungere il cambiamento climatico. Ne parliamo con il tenente colonnello Guido Guidi del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buonasera Guidi. Buonasera a voi. Allora, la prima domanda che le voglio fare è questa. Io vorrei capire, precipitazioni come quelle che abbiamo visto in questi giorni in Toscana sono veramente straordinarie? Si parla di 300 mm in un giorno contro i 600 o 700 che cadono mediamente in un anno. Certamente qualcosa di fuori dal comune, ma straordinario fino a che punto? Allora, queste quantità di precipitazioni certamente vanno ad occupare la parte più alta della distribuzione statistica degli eventi e questo allunga molto i loro tempi di ritorno. Il discorso è che la sensazione è che questi tempi di ritorno siano più brevi o comunque brevi, ecco. Perché questo genere di eventi effettivamente accade abbastanza frequentemente sul nostro territorio, per fortuna non sempre sulle stesse zone. Certo. A parte alcune aree del nostro paese che hanno un problema endemico di esposizione a questo genere di eventi, come per esempio quello della Riviera Ligure, ma anche direi l'Appennino settentrionale. Ecco, ma vorrei veramente capire bene questo passaggio, perché è chiaro che se parliamo di eventi estremi, nel senso che cadono ogni 20 anni, è qualcosa al quale comunque bisogna prepararsi, perché se ogni 20 anni viene distrutto un territorio, evidente che non va bene. Se parliamo di eventi estremi che capitano una volta ogni 1000, è chiaro che non ha nessun senso prepararsi a eventi così estremi. Io non ho capito bene quanto estremi siano. Detto che non la seconda. Ecco, quindi insomma qualcosa a cui tutto sommato bisognerebbe trovarsi abbastanza preparati. E la seconda cosa che mi sembra di capire è che c'è una intensificazione di questi eventi estremi, cioè accadono più spesso. Questo è l'effetto del cambiamento climatico? Voi l'avete misurato? Non con la precisione che sarebbe necessaria, nel senso che per poter affermare che all'interno di una distribuzione statistica di determinati eventi, in particolare quello delle precipitazioni su un territorio come il nostro, che ha una serie storica di informazioni relative alle precipitazioni che soltanto negli ultimi anni si è fatta molto più fitta di dati, perché è intervenuta la tecnologia dei sensori anche della Protezione Civile, oltre a quelli del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, nato peraltro con altri scopi, certo, di misura, non con scopi di misura climatici. Comunque sia, certamente da un punto di vista dei tempi di ritorno di questi eventi, nel corso degli ultimi anni quel che si è notato è un generale, seppur lieve, declino delle precipitazioni in valore assoluto e una loro concentrazione in tempi più brevi. Il segnale però è anche abbastanza difficile da interpretare per le ragioni che le spiegavo. Sì, insomma, per il fatto che diciamo abbiamo delle serie storiche corte, avremmo bisogno di misurare per più tempo, per più anni consecutivi, per poter affermare in modo più forte questo fatto. Però questo ci fa pensare che negli anni prossimi tendenzialmente ci troveremo spesso di fronte a queste situazioni che saranno tutt'altro che straordinarie. Mi perdoni, questo no, in realtà non è detto, perché siamo sicuramente in una situazione, come le dicevo, in cui abbiamo effettivamente questo segnale che emerge. Circa poi la possibilità di proiettare questo segnale nel futuro, sinceramente prima dovremo conoscere bene il futuro. Certo, scientificamente lei ci tiene a precisare. Voi state lavorando, l'ho scoperto frugando un po' sul vostro sito, a dei software. C'è uno che avete annunciato proprio ieri, si chiama Nefudina. È un software che sostanzialmente dovrebbe essere in grado di prevedere in anticipo la formazione di celle temporalesche particolarmente minacciose. Ora io vorrei capire se in prospettiva questi software, queste tecnologie evolute, diciamo, potranno essere utilizzate per lanciare l'allarme con un po' di anticipo sull'evento. Ma certamente la direzione nella quale si vuole andare, si sta cercando di andare, è esattamente quella, cioè quella di affinare le tecniche di previsione e di allungare il più possibile i tempi, il tempo di reazione, in pratica, diagnosi, esatto, di un evento e la possibilità di allertamento. Ora, quello in particolare che lei nominava e che è forse l'ultimo nato degli strumenti, sì, a nostra disposizione, più che essere uno strumento di previsione vera e propria, è uno strumento più tipicamente di diagnosi, nel senso che le immagini da satellite ovviamente sono uno strumento che ci dà informazioni in tempo reale. È pur vero però che il paragone nel brevissimo periodo di informazioni che giungono appunto dai sensori satellitari ci mette nella possibilità di identificare nel brevissimo periodo a seguire quale potrà essere l'evoluzione del soggetto e quindi fare quel genere di previsione che noi chiamiamo a strettissima scala temporale nowcasting. Diverso è invece il discorso per una previsione con un anticipo un po' meno tattico ma più strategico, insomma, strategico, sì. Esattamente, dell'ordine di uno o due giorni, e quelli invece, che gli strumenti che utilizziamo nella fattispecie, sono modelli numerici che cercano di risolvere l'evoluzione dello stato dell'atmosfera e anche individuare laddove possibile questo genere di eventi. Senta, oltre a questo ingrediente, cioè software particolarmente evoluti di previsioni meteorologiche, che altro ingrediente serve per poter lanciare un allarme e dire guardate che lì sta per succedere qualcosa di grave? Beh, facciamo innanzitutto un distinguo. Nel momento in cui parliamo di previsioni meteorologiche, l'ingrediente è l'interpretazione di un soggetto, che sia un previsore, che sia anche esperto di come reagisce un determinato territorio ad una determinata situazione. Dal punto di vista invece successivo a quello che diceva lei, dell'impatto dello stesso sul territorio, è un discorso molto più ampio che coinvolge la conoscenza dello stesso, il polso dello stesso e quindi tutte le strutture di protezione civile. Quindi insomma l'altro ingrediente è la conformazione del terreno, bisogna conoscere molto bene come è fatto quel territorio, mettendo insieme, incrociando questa informazione con quelle di tipo meteorologico si può pensare di arrivare a questo tipo di previsioni. Certo. Altrimenti le sole, diciamo, competenze meteorologiche non sono sufficienti. No, perché noi molte volte capita di individuare il verificarsi di eventi di un'intensità magari del tutto analoga, poi non si producono gli stessi effetti. Grazie tenente colonnello Guidi. Grazie a voi. È tutto, a domani.